Buonasera. Salve, adesso ho fatto, scusa. Sono in radio. Cosa stai usando? Che microfono stai usando? Lo drudio di zio, so contrattende. Ma non parla più lontano dal microfono. Che fa di cicchi cicchi. Ma il microfono sta usando Antonio Gianni. KK. Oh yeah. Va bene, va bene. Io ce l'ho uno, Gianni, il Turner. Non vi raggio a mi dai, come te lo tratta anche tu. Il Turner lo chiamava anche tu, Ma vabbè, sto usando un bel microfono, quello robusto, se ti ricordo a capo dice rubo qua pure. Abbassa la macchina che è. Questa cosa? Non devo abbassare niente, Gianni, non gridare, Antonio, non gridare. E aspetta, dai. Sicuramente va giù, vai zitta. Hola. Hola, hola. Sicuramente va giù rubizio di alta la volte. Non gridare, potevi lasciare che com'era, basta non gridare, ti ho detto. C'ho quel vizio lì, ciocca. Aspetta, così va bene, là. Ah, vabbè, siamo meglio. Così, ottimo, ti ho detto. Basta che non gridi. Tu non gridi e tutto procede bene. Avanti, Dani. Mi senti, Claudio? Mi vai, vai, diglielo. Ciao, Claudio. No, voglio questo. Ma va, non ti rubo di. Ciao. Non ha gara. Oggi non è in vena, vero? Oggi non è in vena, va bene che va bene. Avanti, Gianni doppio rum, riprendi, cambio. Tu adesso come tu hai abbassato la voce, sei uscito benissimo. È il fatto di non devi gridare, perché i microfoni sono ben potenti, se gridi strappano. Vai. Ciao. Ma non ha gara, ma tu dici a non ha gara. Ciao, ma non mi puoi salutare, là. Sei impegnata con la caramella. Dimmi, anch'io mi stavo mangiando una caramella alla menta a schiarire un po' la voce. KK. Ero più vendere una pullita e quindi schiarisce ancora di più la voce. Una impullita? Eia! No. Una caramella balsamica già fa sempre bene, schiarisce la voce, poi io c'ho la voce da orco. E qua giù la voce da... tu stai scendo bene a tu. Dai segnali, no vai, 9.25, con picchia 9 più 30, sì. Già va bene, qua. E no, qua, è tutto sotto controllo, Vedo il show. KK, tranquillo e sereno. Avanti, doppio rum. Cosa Gianni, che avete parlato in due? Ha detto una bella stazione. Chi? Antoine. Ah beh, Antoine ha fatto tanti sacrifici ed è arrivato al top. E siamo contentissimi. Ascoltate i consigli, invece di un paracagliardi. La realtà è quella, va bene. Avanti Dani. Stavo cercando il microfono che mia figlia mi stava facendo occasione ai microfoni. No, già! Figlia mia, uia! Vuole i microfoni, che ha microfono di Bolsudacca. Dani, chi so vecchio, non le dare quello nuovo. Faccio quattro microfoni, chi so cugini già non vedo dopo. No, io c'ho l'auricolare perché sto guardando la partita, quindi per non sentirsi il volume c'ho l'auricolare, capito? Però adesso me lo tolgo, se no non capisco un accidente. Ok, c'era anche, mi chiama Luca Flipper. Luca! Mamma mia, sembra un Flipper, eh! No, forse no, Luca del Monte c'era. Maico! Ehi, sono qua, un attimino che mi sta spiegando una cosa da Lido su WhatsApp. Ma è sotto il monte, non è al monte, c'è sotto il monte. Cosa tu? Ho detto che prima era, allora quando là è al monte, quando invece invece giù è sotto al monte. No, quando è al monte è Perivella, quando invece è giù è Cavalletto. Lucia, sei troncata la Perivella. Chiappa di Rogero, avanti doppio rum. Ehi, io va. Lui è stanco, ma posso andare là. Mi faccio un pisolino perché sono stanco. Qui devo andare a casa e mi sono posizionato il gruppo, già. Ti ho detto voi, già vi ascolto, secondo non mi addormento. Kappa. Eia, ti stavo dicendo che... Però oggi comunque mi sa boomerà che c'è già voce mi da in chibi. Minchia. Io mi sono svegliato alle 6, dalle 3 alle 6. Devo recuperare un po' di ore. Beh, ti arrivo un attimo. Sì, anzi, sì, sul 3 del 30. Chissà boomerà che c'è già voce ma ragione. Ma non è che no, che sei 9.25 sei. Come buccia di gioca, no? Già va bene, ehi. Quello che conta non è il segnale, ma la radio, bisogna avere una bella radio per... Io l'ho preso così, poi il segnale, alla fine, se poi il segnale, ma la... quello che conta è la radio. Hai visto lui stamattina? Hai visto? Segnali quasi uguali, però la radio più forte. E io con le sivatte. Sì, ma comunque cavolo. Le boomerang funzionano bene, la verità non le posso dire niente, funzionano veramente degnamente, come antenna è un'antenna dignitosa, molto meglio di altre antenne. Chi su, chi va giù e no, che lo roccio di coboro, ma carità, cioè ce l'avevo ma non era un granché. Infatti se tornando indietro me l'avrei piazzata la pre dolce. Cosa, Anto? Non ho capito niente. Cosa hai detto? Scusa, mi sono distratto questa... Se sto guardando la televisione, ascoltando a voi, faccio l'auricolare, la guardo, tutto. Gabba. Stai sul telefono, boh. Stasera un poco di gottura, Quindi, Lu, hai capito cosa ti ho detto? Luca Ariello, hai sentito che ti ha detto Danilo? Ehi Dani, devi avere pazienza perché lui ogni tanto si sposta, ma l'ha chiamato Marina. Che ti fai Mini? Bucu. L'hai vista la foto che ti ho mandato? Bugia ti sto dicendo, hai visto? Dove ci sono i due MC60 lì ci va la radio, però non ce l'ho più. Sì, già l'ho vista qua, però il messaggio non l'ho ascoltato perché c'ho mio figlio in grembo. E dimmi che mi rompi tutto. Col microfono della Linco il DR620 in mano e sta cercando di parlare. Fatto che vuole parlare con quello e non con questo microfono. Ho capito. No vabbè, per dimostrarti che non ti sto dicendo balle, no, non ne ho più di niente. Solo questi baracchini e quando arriva a 4.30 vediamo cosa fare, dai. Ma ti ha venduto anche quelli UEV? Cosa Dani? Anche le radio UEV ti hai venduto? Sì, tutte e due in base, tutto. Hai visto i bianchi Dani? Sì, anche questa qua già è bella come modulazione. Limpida. Già va bene, dai. Datemi un secondo, arrivo subito. Kappa, dai. Guarda, ti sta arrivando in zona tua. Qua sei a 9.20. Già va bene, dai. Meglio di nulla. Meglio uscire così che non uscire per niente. No, la volta scorsa eri prima, non la volta scorsa, prima eri molto basso, eri a 9. Faccio, da quando hai fatto questa modifica sei ancora più alto, ti sento anche meglio, più un pochino più forte, però la voce è chiara. Kappa, dai. Oh vabbè, ho migliorato. L'antenna è sempre una Ringolem, la conosci? La Ringolem no, non ce l'ho presente. Quella senza radiale. Non t'ho capito, quella senza? Quella senza radiale. Ma tipo la Game Master, tipo quella lì? No, è in alluminio questa. Forse ho capito qual è. Sì, ho capito più o meno qual è. Ne ho una presente immagine. L'ho comprata da Fucciaro a Sassari. Era di mio padre questa. Praticamente poi non ci ha fatto più la mulla, sarà andato allo soppacco sicuramente. Fusaro mi ha regalato la molla, mi ha regalato quello a spirale, mi ha regalato quello lì e io me l'ho sistemata e funzionava grande, poi me ne ho dato anche una di scorta, quella me la tengo di scorta, la devo riparare perché si è attaccato un pezzo. E questa però è un'altra musica, questa funziona divinamente, cioè proprio bene funziona. Sì, già ho capito con le spirale separano. No, io ne ho una di spirale della Mantova. E se qualcuno gli interessa, me lo dice, gliela regalo, tanto non ne faccio niente io. Faccia la Mantova, c'hai. No, avevo una Mantova solo che era andata. Sì, ho preso e l'ho modificata, togliendone ovviamente la bobina e la spirale. E il vento mi ha portato via tutto quanto il segnale che avevo. Me l'ha piegata. Allora mi sono fatto questa Game Master. Addirittura ti ha piegato la Mantova. Non è possibile qua. È difficile, cioè la Mantova se sono piegata bene non si piegano. Non è che l'ha piegata molto, appena l'ha piegata, però a me quando è roba così non mi piace. Non mi piace quando è appena piegata la roba. Cioè un'antenna deve essere dritta a fare. Invece il vento me l'avevo appena piegata dalla base e non mi piaceva più e ne l'ho scesa. Bravo, di solito non dovrebbe avere questi problemi la Mantova. La Mantova rimane sempre, ci sono Mantova e piattate, quella è andata proprio male. Ci sono Mantova e piattate 30 anni che non hanno mai problemi. No, ma era anche vecchia, era sempre in un poggiolo, su un tetto, in mezzo all'acqua e quindi sicuramente era anche fine come metallo era, come alluminio. E l'avevo piegata proprio più sotto della bobina. Più sotto della bobina, io ho preso e ne l'ho smontata su. E allora non è morto qua. Perché la Mantova non si piega. Ma veramente una Mantova. Era una Mantova, ma non è più una Mantova, anche laggiù distrutta. No, una Mantova era, quella con quattro radiali. La Mantova 1, mica non era Super Lem invece. No, la Mantova 1 c'era da Nino. Non è possibile, Ocra. Cioè, se è fatta bene, se è piattata bene, ti dura 30 anni e non ha mai problemi la Mantova 1. Vabbè, vuol dire c'è tutto il piantone nell'alluminio, se vuoi dire. No, non la buttare da Nicola la spirale che mi serve a me di scorta, che io ne ho un'altra di Mantova di scorta. E c'è la spirale, è sempre meglio tenerla, capito? Quando ti capita, mettitela in macchina, magari quando ci vediamo, ma vai. Ok, tanto ce l'ho in garage, dentro un secchio. E non me ne faccio niente, non so come sfruttarla. Tanto ormai ho questa qua di antenna, la filare e la 510. Uso solamente queste tre antenne e basta. Non mi voglio assillare io a mettere super antenne, no, lascia più. Abbiamo fatto un esperimento anni fa con l'accoppiatore d'antenna, però l'avevo fatto in VHF 2X300 accoppiate. Non so se si può fare anche con quel tipo di antenna, capito? Metterne due accoppiate di Mantova. Mi devo informare a vedere. Io ce l'ho l'altra, la nuova, revisionata, pronta. E devo cambiare proprio la spirale, quindi non la buttare che mi serve quella. No, già non ce la butto, quella lì te la do. Tanto non me ne faccio niente, te l'ho detto, non me ne faccio niente. Ce l'ho già 3 anni, dentro il secchio, smontata dalla bulloneria e messa dentro il secchio. E abbandonata dentro il secchio. No, ci vediamo. Già mi serve quella, Dani. La piazzo su quell'altro piantone che ho già pronto, capito? Da mettere in campagna. Quando sarà, però almeno ho anche la spirale nuova, dai, che l'altra è... non è messa bene bene. Ma guai già te la do senza problemi. No, non ti preoccupare. Ci organizziamo e te la faccio. Sì, già ci sentiamo, non ce n'è problema. Chi c'è rimasto qua? Luca cosa sta facendo? Gianni e Annanna, ha detto sta riposando, va bene, va bene. Ma mi ha fatto abbassare il microfono, tu così va meglio di prima, non è troppo forte, non va bene. Va benissimo, va. Sono ti va disolto. Ce l'ho neanche a uno, ce l'ho. Neanche al primo puntino. Non spingi, cassagetti, usci da giù di buoni allora, dai, troppo un po' così, ha fatto sorto. Ha sorto cosa? Ma che va bene. Va bene così, no? Certo, che va bene qua, va benissimo, va. Ma tu stai facendo a poca potenza, no? Sì, sono al minimo, 4 watt. Sei già messo gabbizzato già. C'è problema, tu, importante sentirci. Non serve a niente tenere il power tutta manetta, 4 watt già va bene. Poi, se qualcuno vuole fare qualche prova o giocare già possiamo tirare su, non c'è problema. Capo, ho messo una corsa di 9.30, sì. Certo c'è sempre 9.40 con quell'altro. Già mi sono gabbizzato. No, la radio è la stessa, sempre col gas, no, però c'è il power regolabile, capito, dall'esterno, RF power, e ce l'ho a 4 watt, anziché a 15 watt ce l'ho a 4 watt. E già bastano, cosa arriva i buoni? Basta, vai, avanzano. Ha voglia, come dice qualcuno, ha voglia. Che la fa? Ha voglia. Voglia. Ma porca miseria. Che stupido che sono. Ehi, già va bene. No, sono stupido io, cosa ho fatto? Faccio giocato ciucchettato il gioco, non ho manco gara di sci. No, io non mi sono ancora riposato, stavo facendo cosa qua. Ma io mi sono bevuto una mezza birra e più un'altra birra. Allora c'è tutto canto strano il gioco. No, non bevo io. Acqua. Ma il capo, ma hai esagerato. Sono più abituato. Lo so, mamma mia, quelle patatine mi fugatizza. Avanti, Brecco. Santiago 8, Radio 5, e tu come mi senti? Capa, bene, mi senti a muros. Capa, c'è tecla. Ma io non ho dubbi, se stai arrivando 9.30 qua. Quindi, ciao Claudio, buonasera, ben ascoltato. Stavo provando il 747, quindi dovevo abbassare la porta. partenza lasciata così. Va bene, avanti Antonio, ma poi chi c'è rimasto qua? Danilo che in quel Rix, Gianni lo stesso, solo noi ci siamo. Capa, solo noi ci siamo. Comunque già ti piace là, Muros, arriva forte in radio, no? Funziona, ecco cosa ho detto. E la bombola era di fare dove sì. Se senza la bombola già funziona bene. Ma guarda, io l'ho provata qua, l'ho provata in qualunque zona e funziona benissimo. Molto meglio di certe antenne che costa il doppio, non si viene a nulla. Brecco. Ah, ti brecche. Ciao Antonio, buonasera. E buonasera a te. Ciao Rubroffetta. Ciao Gianni, buonasera. Bene, mi senti Rubroffetta. E allora, cosa ci racconti di bello? Facci sognare. Ehi, esagerato. Niente, cerco di svagarmi e di passare il tempo, dai. Niente di eccezionale. La sera mi guardo qualche filmettino così, giusto per, dai. E anche io mi sto rilassando, sono un po' stanco, dai. Mi sono pulito tutta la casa e adesso mi rilasso un po', dai. Mi sono addormentato un po', adesso mi sono risvegliato e moduliamo un po'. Chi c'è in ruota? Io sono Antonio, sono. Dico, chi c'è in ruota oltre a te? C'è anche chi da Ruggito, da Muros. Avanti Chiodo, qua Gianni il profeta da questa parte, avanti. Ehi, ciao Chiodo, buonasera, ben ascoltato anche a te, dai. Io non posso darti un segnale ben definito perché lo smitter di questa radio è un po' tirchio, quindi è inutile darti segnali poco attendibili. Comunque ti ascolto bene, dai, considerando la distanza che c'è tra me e te, considerando la stazione, cioè l'apparecchiatura che ho, ti ascolto molto molto bene. Visto che Antonio ti ha nominato la Boomerang, io sto utilizzando come sistema radiante la Boomerang e quindi ti ho detto tutto. Ce l'ho infatto. Bene, ti arrivo già. La bomba. No, lo profetta. cazzo, Antonio, che discorsi fai? A Giovanni, cazzo, ti piego l'antenna con la mano. Già ti bigio Smith, arrivo, non ti preoccupare. Vabbè, dai, tanto c'ho lo... Il mio c'ha gli ammortizzatori da corsa, mia. È arrivato a un certo punto, non si muove più. Cazzo, cioè, rendetevi conto che Antonio è entrato in radio, arrivi a 9.05. A voi è cominciato 9.10, 9.15. Lo sapete quanto sta arrivando adesso? Gianni, no, non te lo dico. Chi è? Ciao Claudio, buonasera. Va bene, non mi senti? È certo che ti sento. Io sono con 4 watt. Ho detto quanto sta arrivando Antonio Bombo a casa mia. Voi non ve lo immaginate. Ha iniziato con 9 più 10. Adesso è 9 più 30. 9 più 30. 25 a picchi di 30. Cioè vale a dire che mi arriva quanto mi arriva Gianni con lineare attaccato. Vai giù. E voi perché con le radio salgono di watt? Come scaldano salgono di watt? No, non deve scaldare quella, stai confondendo le idee tu. Quella non deve scaldare niente. Quella quando l'accendi sono quelli. No, già, è perché la posizione mia è anche diversa. E logico, gli arrivo sparato. Suona la radio, Antonio, tu ma tu ti immaginaggi. Sono contento per lui. Figurati io, te l'ho fatto avere, sono contento per lui. Sono contentissimo perché ha fatto tanti, ma tanti e tanti sacrifici. Però ha dato retta. Va bene, segnale a me me l'hai dato, quindi con 4 watt, 9.30, e cosa vuoi di più? Sì, Antonio, così è la realtà, io ballo un terico, ti ho mandato anche il filmato, ti ho mandato, poi no, non c'è problema, arrivi veramente molto molto bene, di radio non avevo dubbi che da un microfono all'altro passavi dal giorno alla notte, effettivamente è così. Sì, veramente a posto adesso. Puoi lasciare anche quell'antenna perché arrivi dove ti piace. No, dico la verità, cara. Io con la Ringo mi trovo bene. Molti parlano. Però io con questo tipo di antenna mi trovo veramente bene. No, non gli posso dire niente. Io ce l'ho già un po' di mesi, ce l'ho. Ma... Io cosa ti ho detto tu? Lascia che arrivi il tempo bello. Poi vengo io lì, aggiungiamo, lasciami togliere il dipolo, che ci sono dei pali telescopici che mantengono le punte dei bracci del dipolo che sono fini, nel senso che entrano in quello lì. E le tiriamo su di altri due elementi. Capito? Il cavo è già l'H155, quindi la radio non se ne va venda, ma chi c'è una radio? E poi ti faccio vedere la differenza, recuperi almeno altre due o tre punti, sicuro, ma stai arrivando veramente molto molto bene. Io ho espresso già il mio parere nei tuoi confronti, quindi non ho da aggiungerti niente, sei a posto per me. Dice mettici un'altra antenna, cosa la cambio a fare se va bene, cosa me ne affutti? Cioè, io parlo con tutti, parlo con Muros, parlo cioè con tutti. Io sono contento di quello che ho, cioè no. Questa antenna di babbo era. È malata a me. L'altra ce l'ho, la devo riparare un po' perché sicuramente chissà cosa è stato di forruggiato, poi ho capito. Non posso dirgli niente, la verità, ha preso 20, l'ha pigiata, cioè l'ha piegata così, però sempre dritta. Non mi posso lamentare, cra, non mi posso lamentare di nulla. Lì va bene quell'antenna perché non è molto pesante per la qualificazione che hai. Solo che la tiriamo su e poi vedi che da 9.5 arrivi molto più forte a Muros. Perché quella zona è buona, non ti preoccupare, va bene. Avanti, doppio room. E la interessante che altro sia soddisfatto, Poi va bene così. Interessante che sia soddisfatto e sia contento. La verità già, io mi trovo bene, poi ognuno dice la sua. Fino adesso è sempre in ovvio, ha fatto vento forte, acqua, di tutto ha pigliato. Però è sempre lì. Uno è uno di stazionare. sì, ha attaccato il tutto, ha già attaccato. Sì, sta attaccato. Va bene, aspetta che scendo giù al bagno, un attimino. Ci ha creduto tutto nel suo progetto, ma ha fatto i suoi sacrifici e sono contentissimo perché lo merita. Tutto qua, altro non posso aggiungere niente io. Chi c'è rimasto qua? Io 4 watti. Non mi stai parlando insieme, si capiva solo tu. Eh beh, è normale, si capisci solo tu, non ci mancherebbe altro. Antu, zio Claudio, cazzo sovramodo, il buco. Dove è andato Antu? No, l'ha messo nel quarto. Si è spostato nel QTH piccolino. Ah, Gianni, c'è, scusa Gianni. Sì, sì. Sicuramente è sceso giù. Riprendi lo brofe. Eia, eia. Vabbè, ha fatto il salto evolutivo, dai. È inutile che chiede il segnale a me. Un altro poco si toccava una mano dalla balcone. No, no, qua c'è un segnalone, veramente. C'è un segnalone adesso. È quasi sul 30. È quasi sul 30. 25 piedi. Non pensare Gianni che stia andando con molta potenza, ha regolato 10 watt di portante quella radio, quindi non pensa, ma c'ha dei picchi allucinanti, va da 25 a 30, va bene, è lì adesso appena arriva il tempo buono, gliel'ho promesso, vado, mi regalo due tubi che ce li ho, li attiro un po' più su quell'antenna, io sono un po' più leggero di lui, salgo sopra e gliel'allungo. E sicuramente recupera anche qualcosa in più da magari qualche tirantino di nylon leggero giusto per mantenerla un po' più ferma. Va bene, cambio. E tu già controllato hai che antenna prendere? No, io mi sono aggiustato la boomerang anche su quadrata di ghiscia. Poi si era fatto vivo, non sta più entrando, si era fatto vivo Antonio Grode, che aveva un'antenna smontata che si era ripromesso che doveva darmi, però insomma è da qualche settimana che non ci sentiamo, quindi sto aspettando le sue notizie e poi vediamo, però per il momento non ho niente da preoccuparmi. Si è deciso, si è visto le caratteristiche di quell'antenna che mi hai detto, le hai viste già, com'è buona? Vi siete parlati in tre. Cazzo di asso, ma devo aumentare la potenza, ma fammi intendere. Doppio Roma. Eia, ho detto, che tipo di antenna Gianni, che tipo di antenna ti deve dare, l'amato? No, negativo, no, mi sembra che lui avesse una Ringo smontata in campagna o non so dove, comunque si era ripromesso che me la portava appena era possibile, e infatti non lo voglio infastidire con, insomma, già ce ne siamo dette le cose, quindi non è un problema. No, ti ripeto, io non ho questa necessità impellente, l'antenna è viraggio, quindi quello è un surplus, capito? Quindi se arriva bene, se non arriva idem compattate, non vi so problemi, cioè per il momento io sono a posto, dai, quindi non mi preoccupo. Caspita, proprio una boomerang arrivi benissimo, no? Bene, benissimo. Cazzo, 9:20 qua, ho già avuto di più. Va bene, no, ti ripeto, era giusto una cortesia, si è offerto e quindi aspetto che lui sia in condizioni per potermela portare, poi vediamo un po', insomma, però ripeto, la radio c'è, il microfono c'è, abbiamo lo strumentino, abbiamo un'antenna, e cosa vuoi di più? Siamo a Dama. Già ero profe, se tu quella la fai a 1-1 stazionare tu non hai mai problemi, perché se piove un pochino ti avanzano un po', però non avrai mai nessun tipo di problema. Già lo so Anto, l'ho avuta per un paio di mesi e poi l'ho restituita al padrone perché me l'avevo data per testarla, dai, poi giustamente l'ho riportata indietro. Scusatemi un attimo che mi hanno chiamato, mi assento 2 minuti. Ma una stazionaria, ma così muove l'ago e poi non ti dà problemi. Il grasso ci vuole, per non entrare. Beh, e ci torniamo a salvare la potenza, dai. Gianni doppio rumore. Controllato l'antenna che mi hai detto che dovevi vedere, se hai controllato quale antenna prendere. Gianni. Gianni ha il telefono, ma io compreso. Guarda tanto se è salito il segnale, 15 watt. Però Guglia, se non fa 40 è lunghi. Oh, meglio così, dai. Con 4 watt ho visto che non ci sentiamo. Sì, no, non è che non ci sentiamo, no. Ehi, va bene, dai, lasciamo così alla massima potenza questo Saturn. Non è che ti... Qua siete voi qui. Non è che ti coprono, no, là, di più con 5 watt, perché loro sono molto più potenti di te. Ma tieni lo bacio a tutti i giorni, e intanto esci lo stesso. Rieccomi. No, se parliamo tutti assieme, glielo dico che passa loro a te. Ehi, mamma ragazza, abbassami, e sono molto più vicini. Sono molto più vicini, no, ma non posso lamentare, no, non è quello il problema. È che l'ho rimesso com'era, perché stamattina stavo provando un 747 e quindi ho dovuto abbassare la potenza, capite? E poi l'ho lasciata stare così, adesso l'ho rimessa a 15 watt. Avanti, roba fè, già ne ho più room, deve essere al telefono. Ehi, sono rientrato. Sì, ogni tanto sparisce. Cos'è che stavo dicendo? Cosa volevo dire? Ma non me ne ammetto. Cazzo. Buco di memoria. Avanti, tanto. Che stavo dicendo che c'era l'arringo, così è. Ecco, mi sono ricordato, sì, Anto, io l'ho già provata, me l'hanno prestata per un paio di mesi e la conosco molto bene con l'antenna, quindi conosco pregi e difetti, quindi mi regolo di conseguenza, là. Però per il momento io c'ho lo stretto indispensabile e va bene così, dai, se arriva arriva, se non arriva è la matessi cosa. Quella... Cosa sarei di più fatto in Kiwi? Devi punire lo grasso, devi punire. Una cosa, sia nel PL sia in quel cavolo di filo. Ma che problemi te ne darà pochi? Eia. Già siamo preparati. Abbiamo ricevuto informazioni in merito alla cosa, quindi... I consigli sono tanti e li abbiamo tenuti in saccoccia, dai, Anto, avanti qua. Qua io senza mettere il grasso nel PL gli ho messo direttamente un termorestringente di quelli grossi, di quel diametro lì, un pochino più lungo. E problemi non ne ho di acqua. Scappa, vabbè, questo devi coprire sia il PL... li devi coprire quell'affare, li devi coprire dove entra quel filetto per la corrente stazionaria. Tu li fai quell'accorgimento lì e lì va bene. Capito. Ma è anche da calcolare che il grasso è conduttivo. Ma le fazzinuta no. Sempre roba di corrente. Il grasso è conduttivo ed è l'onfio. Dico che non è così. Dici? Sì. Guarda, dimmi tu come ti rifà l'antenne. Ma è un telefono, Claudio. No, comunque è risolto col termorestringente. Problemi di umido sul connettore non ne ho, proprio asciutto, secco. Cappa, io gli ho messo il grasso, ho pochi problemi ciò. Se non che gliene hai messo proprio un velo leggero. No, te ne ho messo già. No, perché il grasso ci vuole, perché ci vuole l'acqua, non penetra, capito? Ehi, io lo so come funziona il grasso. So come brutto io di grasso, gli di pozzo, grasso, benzina, gasolio. Beh, allora già lo sa come te. Non penetra, capito? L'acqua non vi passa. No, a passare non passa. Però il grasso è conduttivo. Eccomi qua, sono entrato, scusate che ho il telefono. staffa dice che lo grasso è conduttivo, io non lo trovo conduttivo, io gliel'ho messo e non ha problemi l'antenna. Ma dove l'hai messo? Nel PL? Nel PL, in quel cavolo di coso. Già protegge, però bisogna sempre stare attenti. Ma non ho problemi. Perché io ci posso sempre fare il dente. Sai che sai cosa ha fatto qua? Il cavo che ha coperto col grasso funziona sempre a massa. Ha coperto tutta quanta una massa lui. Però se lui collega positivo con lo caldo con la calza, tutto col grasso, succede macetto. No, così no. No, ma lui l'ha isolata solo, ha fatto un rivestimento di grasso sopra il PL per proteggere dall'acqua e poi ha ingrassato praticamente dove ci sono i connettori, no? Ha ingrassato dove c'è quella fabbrica. Un di me già lo sai come è fatta la Ringo. Lì dove c'è quello, la spirale, io ho messo il grasso. E... capito, Aikra? Dove c'è quella parte per regolare lo sub, dove c'è per regolare i stazionari, lì l'ho fatto. Io grazie a Dio problemi non ne ho. Sì, già va bene lì, però lui ti sta dicendo di non mettere il grasso tra un polo e l'altro, capito? Tutto assieme mi. Lo devi mettere separato, perché sennò ti può creare problemi. No, nei bongo in chibi no. Ragazzi, io mi devo allontanare perché vado a ordinarmi la pizza. Dai, casomai ci sentiamo dopo. Nel caso dovessi tardare, vi saluto tutti e niente. Casomai ci aggiorniamo più tardi, ok? Dai, buon proseguimento. Le panini li falli. Cosa? I panini li fa quello lì. Boh, io non ho già mai domandato, ma penso di sì. Capa, se no me l'avrei abbigliato in chibi. Tanto, quella spirale che hai cambiato, quante spire ha? Una o tre? Quella spirale? Quella dell'antenna? La spirale che hai cambiato dell'antenna, quante spire ha? No, è fatto così, è fatto a ceccio, così. E c'è quello stubbio, quel filo che passa per la regolare stazionaria. Scusate, Claudio. Ehi. Ciao, sta. Vorrei un controllo un attimino, che sto usando un'altra cosa. Un bel saturo, sì. Cosa vorrei sapere? Un bel tino. Aspettate, va. Non la conosci la Ringo come è fatta? Sì, ne ho una qua davanti, è quella che ti stavo dicendo io, allora io. La tua, se non sbaglio, era la BT210, quella lì è giusto, che c'ha nel polo caldo un filo che va verso la spirale, per accordarla. Sì, bravo. Avete parlato in due, dimmi Tino. Guarda, si è migliorato. Ma poco, poca roba. Ascolta, poi sono 20 mattina, giusto quello, poi se ne passi qua là. Yeah. Aspetta che scendo un attimo in bagno, Dani. Ok, dai, già sono qua. Eccomi. Ok, ti stavo dicendo, la tua qual è? La BT210? La mia è quella che ha le vitine nel coso, non ha le fascette. Perché hanno fatto due modelli, quella che ha le fascette e quella con le vitine attaccate. Io ho il modello vecchio, ma c'è anche il modello nuovo però. Quella che ha una sola spirale, che va dal tubo all'isolatore al tubo, quella lì c'hai tu. La tua, quando tu piazzi l'antenna, si mettono nei tubi, cosa metti? Fascette o metti così, metti le viti? No, io ho messo le fascette, però io ce l'ho tutta quanta siliconata, l'antenna è siliconata, resinata l'antenna, quel pezzo lì dove c'è la bobina ce l'ho resinato. Io ho l'altro modello più vecchio. L'altro modello più nuovo ce l'ho qua a casa. Eia, però ti ho detto, la spirale che hai, è come ti ho detto io, dove c'hai la spirale c'è il connettore sotto, poi dal connettore esce. un filo che va attaccato a circolare nella spirale, così ce l'hai? Sì, sono tutte così. Sì, sì, sì. Sì, allora è quella che sto guardando adesso. La ringo 27 MHz, fa da 26 a 28 MHz, 1000 watt di potenza, 50 ohm, un guadagno di 6 dB, stazionarie 1, 1 e 2. Sì, già è questa qua. La mia è la mia 1 e 1. Ma dico che va una meraviglia. Il modello vecchio mi sembra migliore a me. Sarà che ho visto a 2 io. O perché me l'hanno fatta un po' strana, però il modello vecchio è migliore. Oh, non te lo so dire io. Comunque è un'antenna da mezz'onda. No, già è carina. Già è carina, sì. Altezza antenna 4,80 m, giusto? 5 metri, là. Già è questa qua allora. No, già è carina, senza radiali poi. È molto più rappresentativa, là, si nota di più. Ma io mi trovo benissimo, guarda, non ho problemi. Anche perché l'ho piazzata bene. E almeno anche sui radiali non si appoggiano le cornacchie. Caffa. Però un'altra, ma la sorta il modello con le fascette più grossa, Ma quali? Le fascette in plastica o quelle in metallo? In plastica. Le fascette in metallo, c'ha. Le fascette in metallo, c'ha. Strano. Questa qua invece non me lo dice come sono le fascette. Mi dice che c'ho le fascette, però non mi dice come sono. Sì, quella è fregatene che quella. Io ho quella con le viti. Quella più vecchia. Aspetta che ordino una cosa. Aspetta che sto telefonando. Vai tranquillo. Avanti. Bene, bene. Sì, io ho avuto anche alcuni canali, quello che fa l'ascolto dal microfono. Ma la cambio 23 non segnala apparato, La cambio 23 c'è forte. Come sente male? Come si chiama? Aggiungo dollaro, qualche volta l'ha usato. comunque sono apparecchi che si adeguano a tutti i tipi di microfono, eh. C'è qualcuno che poco fa voleva entrare, mi sa, avanti. No, ho detto, vabbè, gente mala. Antoine, tu sì? Ero io, ero. Ah, perché spento avevate, Claudio? No, è sul 20, non è che abbiamo spento, no, è che io stavo ordinando, i panini stavo ordinando. E quindi capito. Dove li prendi? Ma è proprio Marcellino qua. Capo. E io non sto telefonando per la pizza, ma è sempre occupato. Capo. No, la pizza non la prendo l'altro nessuno, la pizza la prendo via Grazia Deledda, da Oblix. Perché sono puntuali e cioè. E via, ce la prendo solo da loro. Perché gli altri mi sono scocciato. Da Anima Lunga? Sì, sì, sempre da lui, manca latte dolce, la prendevo sempre da lui. KK. Allora, chi è rimasto? Avanti, che ho reginito. Sì, sì, già va bene anche questo, ma non va bene anche l'altro, la verità. Ci mancherebbe. KK, aspetta che accendo giù un attimino. Riprende già. Sparito Gian, ciucciù, roba da Monica, cioccato, bubu. Vabbè, ci sei? Sì, io sono qua. Sei K, fammi. Eccomi qua. E quindi dice, sei stato male, me l'ha detto capo, mi dispiace. Sì, aspetta 2 minuti che apro la porta, 2 minuti. Ehi, a capo, dai. Che l'arrugito ci sei da muros. Aspetta, Simona, la porta, là. Sono a posto. Ehi, vabbè, purtroppo, cazzo, quando ti pigli di freddo, cosa devi fare? Oggi proprio, guarda, è un casino. Perché, Antonè? Cazzo, stamattina ci stava bene a 10 gradi. Adesso non è mezzo di 2, cazzo, un freddo, cazzo, ma un freddo, cazzo, stavo andando sotto, cazzo. Dai, può capitare, Antonè. Mamma mia, cappa, cappa. Vabbè, dai, guarda che io so che tu stai bene. E poi, non c'è problema, va. Antonè. Mi ascolti Gianni, sì, mi senti, stavo parlando con mio nipote, stavo cercando un cavetto e in pratica c'era una cosa là che avevo io, mi sono dimenticato cazzo di raggiarlo, cercarlo perché altro, perché c'ho tutti i cavetti, cosa del genere, quindi adesso faccio pulizia in casa, a un certo punto baracchini, roba del genere, quindi modello vecchio, eccetera, eccetera, VHF, eccetera, eccetera, li sto tutti quanti buttando nella mollezza. Ehi Antone! Ehi Anto! Cosa hai attaccato? Stavo dicendo che adesso mi sto prendendo casa, capito? Perché voglio fare il cambio di... cioè voglio cambiare il pavimento o roba del genere, voglio sistemarmi bene la casa. E quindi voglio mettere i parquet, siccome devo cambiare... vabbè, te lo spiegano di persona, non è che devo spiegare la baracchina agli altri. A un certo punto sto buttando tutto quello che non mi serve in modo da fare pulizia e fare spazio, capito? E sto buttando tutta la roba che non mi serve, tipo VHF, eccetera, eccetera, capito? Hai capito? Ho capito Antonè, mi sono, come si dice, arrivati i panini. Ci sentiamo dopo, ok? Che stiamo mangiando, ok? Vabbè, ok, non c'è problema, là. Quando vuoi già sono qua. Chiamami, già sono qua, l'ascolto. Ok, dai, non ti preoccupare. Forte mi senti di radio, Antonè? Sei abbastanza, a voglia. Il segnale com'è? Prova. Come te prova? 9:20, sì. Sì, andava là. Ok, dai, ci sentiamo. D'accordo, ok, alla prossima. Già sono qua l'ascolto, là. Sto pulendo casa, sto togliendo tutta la quello che non mi serve e la sto buttando fuori, lo sto regalando, VHF, quello che c'è, non me ne frega un cazzo, non me ne devo riempire la casa di mondezza, di cos'è quello lì. Capo, se c'è qualcosa fammela vedere. Sì, ho voglia. D'accordo, non c'è problema, ti faccio le foto e vedi se decidi a liquidare la roba. Come ha fatto quello di stamattina. Ok Antonio, dai va giù a mangiare. Ciao ciao. D'accordo, ok. Ciao ciao ciao ciao. Hola, hola. Oh Antonio, ci sei? Attento Antonello. Dino, oggi per il tentativo di... Attento Antonello Pomponio. Va bene, dai, io rimango qua lo stesso 5-10 minuti, dai. Se ne fa qualcuno. No, se no pazienza. Ok, dai già, vai e fai tranquillamente la carica. Saluti, famiglia, un abbraccio e ci sentiamo alle prossime. Ok, ciao.